646. Torta di mandorle e cioccolata. Per chi ama la cioccolata, questa, se non mi inganno, è una torta squisita. Mandorle grammi 150, zucchero grammi 150, cioccolata grammi 100, farina di patate grammi 60, burro grammi 50, latte deciliti 3, uova numero 4, odore di vaniglia. Le mandorle sbucciatele, asciugatele bene al sole o al fuoco e pestatele finissime nel mortaio insieme con un terzo del detto zucchero. Fate un intriso al fuoco col detto burro, la farina di patate e il latte versato a poco per volta. Quando sarà giunto a consistenza, versate la cioccolata grattata, lo zucchero rimasto e dopo essersi sciolti bene l'uno e l'altra, aggiungete le mandorle pestate, rimestando continuamente. Quando il composto sarà ben amalgamato, dategli l'odore con lo zucchero vanigliato e lasciatelo ghiacciare per unirvi le uova frullate a parte. Con grammi 100 di farina fate la pasta matta del numero 153 e con la medesima, regolandovi come nella torta di ricotta numero 639, versatela in una teglia ove riesca della grossezza di oltre un dito per cuocerla nel forno da campagna. Va tagliata a mandorle come quella quando sarà ben ghiaccia.